24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Cos'è sta sigla a quest'ora? Io non l'ho ancora capito. Pensavo non potesse essere vero. Invece siamo qui alle 6:32, cari ascoltatori, abituatevi, avete messo la sveglia. Iniziamo da oggi a quest'ora e staremo in onda fino alle 9. Ebbene sì, 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qua. Anche oggi c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia lì, dall'altra parte del vetro. C'è il nostro Alessandro Longoni in redazione, già attivo, fa nomi, numeri di telefono, compone, eccetera. E allora saremo insieme fino alle 9, eh? Poi gli ospiti più avanti ve li diremo. Alle 7:20 ci sarà sempre la rassegna stampa, alle 8:20 ci saranno gli ospiti, diciamo, per parlare dei nostri argomenti. Oggi avremo il sottosegretario all'istruzione Rossi Doria per parlare di scuola. E parleremo anche di casta dei politici e stadi di calcio. Prima però, come si addice a una buona mattina, vorrei aprire il nostro bar di Radio 24, almeno, perché almeno, ecco qua, tirata sulla saracinesca, in modo che voglio capire già se c'è qualcuno. Sì, c'è già qualcuno. Voglio salutare i primi che entrano qui nel nostro bar. Intanto saluto dagli Stati Uniti, abbiamo un bar molto ampio, dagli Stati Uniti voglio salutare Francesco Costa. Buongiorno, anzi buonanotte. Ciao, buongiorno a voi. Che ti devo dire? Buonanotte, che ore sono lì? Ma qui in realtà buonanotte, è 12:35, siamo 3 ore indietro. Ah, perfetto. Francesco Costa è un giornalista del Post, il Post.it, collabora anche con il del Sole 24 Ore. E ci parlerà di qualcosa di America. C'è anche qualcuno qui in Italia, Bimbo Alieno, che è Bimbo Alieno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bimbo Alieno è un blogger economico molto conosciuto nella rete, su Twitter anche è molto attivo. Al suo blog, com'è il blog? Bimbo Alieno. Il blog è molto semplice, www.bimboalieno.it. Bimboalieno.it. Abbiamo anche un direttore, Mario Secchi, direttore del Tempo. Buongiorno direttore, eccoci qua. Ciao, buongiorno, benvenuto nel nostro bar di Radio 24. Ti faccio una domanda, Mario, ma tu hai la scorta? Ce l'hai la scorta? La scorta? No, tu, Mario, ce l'hai la scorta? Sei matto. No, che ne so? Sono normale. che ne so? No, perché succede, può succedere purtroppo anche per brutti motivi. No, sai perché voglio partire da qui anche a tutti? Perché c'è la polemica sulla scorta di De Mita, l'hai sentita, no? Che è andato De Mita alla sagra della polpetta. E un vigile che l'ha fermata, ha fermato la macchina, è finito sotto procedimento disciplinare da parte del suo sindaco. La polpetta docet. La polpetta avvelenata, forse. Il giorno in cui ho la scorta puoi preoccuparti per me, guarda. No, vabbè, ma sono tempi. No, ma lo dico perché noi cosa abbiamo fatto? La De Mita non parla. Però noi lo abbiamo pizzicato, lo abbiamo chiamato a casa, lui non poteva esimerci dal dirci qualcosa. Ciriaco De Mita, sentite cosa ha detto, chiamato dalla nostra Elisabetta Fusconi. Intanto come sono andati i fatti secondo De Mita? Ma perché raccogliete stravaganze e poi le volete pure verificare? È la cosa di una banalità insopportabile. Io sono andato in questo piccolo borgo, quando sono arrivato mi sono fermato perché c'era gente, quindi sono andato a piedi in piazza, tutto qua. Poi mi hanno riferito, dopo mi hanno riferito, che l'autista voleva parcheggiare e il vigile ha detto che non si poteva parcheggiare e lui è andato via. 2 minuti dopo però il vigile ha consentito ad un altro di parcheggiare. Siccome il sindaco l'ha saputo, ha chiesto al vigile la spiegazione del perché si è comportata così, che la spiegazione non è stata ancora data. Quindi se siete curiosi, chiedete alla persona del perché uno poteva parcheggiare e l'altro no. Allora, questa è la versione dei fatti di De Mita, di una banalità insobbordabile, ha detto una cosa di una banalità insobbordabile come è andata la vicenda. Ma sentite poi come ha concluso la telefonata con Elisabetta Fusconi, che voleva farle qualche domanda in più, insomma, ancora. Se me l'hanno dato vuol dire che una ragione c'è. Non è scorte e tutele, è una cosa molto diversa. vorrei che si avesse nella memoria che io sono stato Presidente del Consiglio. Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Eccolo lì. Mario, è finita la nostra Fusconi, che ti posso assicurare non parla con un tono da pubblico ministero, parla con un tono da pubblico ministero lei, e quindi questo tono è sgradevole e la saluto. Allora, ma stiamo tutti impazzendo con questa storia delle scorte, stiamo esagerando con questi attacchi alla casta, no? Io vedo delle robe che voi umani, insomma, se per averla bisogna avere una minaccia, non ci vuole molto ad averla, eh. No, infatti. Voglio dire, metti uno che fa il mio mestiere, il tuo mestiere, cioè sai quante lettere anonime ricevo, telefonate così via, beh, che faccio? Chiedo la scorta, ma su via, dai. No, ma era il tono di De Mita, e vorrei facessi presente che vorrei ricordassi che io sono stato, sono stato presidente del Consiglio. Io conosco De Mita. Come persona molto mite, ovviamente, e anche gentile, non capisco perché abbia reagito così. Ma no, ma voglio dire, ma è stato già dato la sua spiegazione, però questo tono dice queste domande, ma perché mi fa queste domande? E poi ha messo giù. Però non hanno tagliato niente. No, infatti. Questo, si vede in giro la gente meravigliosa che va e viene. No, l'unica cosa è che secondo me è un po' così, che ce l'hanno molti, come dire, molti giornalisti, eccetera. E che poi sui giornali bisogna criticarle, no? Non è bello. Questo sì. Non so, Bimbo Alieno non ha la scorta, no? Bimbo Alieno. No, nemmeno io. No. Francesco Costa, in America come succede? Cosa succede? C'è questo fuoco contro la casta? È un tema che tira, soprattutto in termini di campagna elettorale adesso? No, non è affatto un tema che tira. C'è ovviamente molta attenzione riguardo lo spreco del denaro pubblico, però si parla dei veri numeri, il programma di assistenza sanitaria, le pensioni. In realtà la cosa che spesso non si dice, comunque non è così evidente quando si parla di casta in Italia, è che parliamo di cose simboliche, cioè è politicamente, simbolicamente inopportuno che De Mita abbia la scorta, se ce l'ha. La tutela, ha detto, è una tutela, non è una scorta, è una tutela. Sì, un agente, esatto. Però sì. Il punto è che non è che se aboliamo tutte le scorte o dimezziamo i parlamentari o aboliamo i parlamentari del tutto, ipoteticamente risolviamo qualcosa dal punto di vista, insomma, del denaro pubblico sprecato, del debito pubblico enorme. Negli Stati Uniti si concentrano molto di più sui soldi veri, ecco. Anche perché poi bisogna dire, d'altra parte, non hanno nemmeno però dei politici inamovibili, insomma, c'è un ricambio continuo, chi viene eletto più volte perché insomma ogni due anni, addirittura i deputati ogni due anni devono rifare la campagna elettorale, riguadagnarsi il seggio, insomma c'è un sistema per cui la politica sembra meno una roba blindata e castale. Sì, sì, non c'è questa idea, non so, no, Mario Secchi, non c'è questa idea che i politici si protraggano nel tempo e quindi ti ritrovi a 80 anni con De Mita, ma per carità, se De Mita la scorta, la tutela, quello che è, vuol dire che ne ha diritto. I politici di lungo corso, ne ho conosciuto qualcuno nei miei viaggi negli Stati Uniti, ora un po' meno perché dirigendo il giornale non hai molto tempo per fare queste cose, ma comunque anche lì esistono. Il tema vero è quello che diceva Francesco adesso, cioè lì si vota ogni due anni, c'è un ricambio forte. E le primarie a tutti i livelli sono importanti perché comunque assicurano competizione e ricambio. Da noi il massimo che può capitare, per come è strutturato il sistema elettorale, è la cooptazione. E sto già usando una parola e sei già gentile con questo termine, perché in realtà non è neanche cooptazione, perché sai, la cooptazione per esempio c'era nella prima repubblica, in qualche maniera funzionava. E che termine ti veniva in mente? Si può dire? Sono nominati. Nominati, vabbè, certo. Con questa legge elettorale, questo è che dobbiamo fare. Cioè, sono tutti nominati, poi tieni presente che i partiti non esistono, sono liquefatti. Per cui tu hai una situazione in cui nella prima repubblica c'erano i partiti e c'era la cooptazione, ma in qualche maniera avevi anche una classe dirigente. Oggi non hai partiti, non c'è cooptazione ma nomina, e la classe dirigente è quella che è. Ma adesso arriva Beppe Grillo e cambia tutto, ma qui ci arriviamo tra un attimo. Prima vorrei capire, allora, Bimbo Aliena, hai portato i soldi qui al bar, anche se è gratis, se vuoi un caffè te lo faccio gratis, non c'è problema. Perché per gli italiani che tornano dalle vacanze, oggi il Sole 24 Ore dà una bellissima notizia, una di quelle che uno magari riprende a lavorare oggi il 3 settembre e dice: oh, finalmente non vedevo l'ora di leggere questa notizia. Il Sole 24 Ore ha fatto una proiezione e in questo ultimo scorcio di 2012 le famiglie italiane spenderanno una media dai 250 ai 450 euro in più rispetto all'anno scorso in termini di bollette, energia, gas, eccetera. Tanto che giustamente la stampa si concentra su tutti i marchi che stanno facendo le pubblicità, tipo, non so, l'Esselunga, le Poste, la Colgate. Compri da noi e ti diamo dei buoni benzina in regalo. Ma che siamo tornati al baratto? Cioè, o al baratto? No, qualcosa di più. Cioè, dobbiamo vivere così, andare a fare la spesa all'Esselunga così ci danno la benzina gratis? Ma sicuramente c'è sempre più sensibilità sul tema benzina, perché ormai i prezzi hanno raggiunto livelli veramente molto alti. Siamo, non so, ormai la benzina potrebbero davvero, sentivo la pubblicità prima, darla in bottiglia, no? Perché abbiamo superato i prezzi di un vino, per certi versi, proprio parlando di Esselunga. Però diciamo, sono prezzi determinati in questi ultimi momenti prevalentemente da questioni di accise. Abbiamo il sottosegretario De Vincenti che ha parlato di necessità di sterilizzare l'IVA, come si dice, da 20 anni a questa parte. Chissà se questa sia la volta buona, perché ogni volta che c'è l'aumento delle accise, ovviamente c'è l'IVA sulle accise, quindi c'è una sorta di effetto leva fiscale che fa sì che i prezzi lievitino per effetto di questi aumenti. Ora, durante l'estate c'è stata questa iniziativa da parte di alcune compagnie petrolifere di fare degli sconti che ci hanno quasi un po' viziato, degli sconti nel fine settimana, ingenti, di 10% circa del valore della benzina al litro, al punto che l'associazione dei consumatori ha chiesto di prolungare questa iniziativa di sconti, che però le compagnie dicono di fare di fatto sotto costo. Ecco, cioè, ma la domanda classica che fanno tutti gli italiani, che se c'è sempre una spiegazione tecnica che qui però ci fa venire il mal di testa, quindi ci devi dare una spiegazione un po' più da bar, appunto. Perché quando aumenta il petrolio aumenta la benzina, quando il petrolio diminuisce la benzina non diminuisce alla stessa velocità? Ci fregano? Insomma, se uno si prende la briga di andare a vedere quanto costava la benzina quando il petrolio stava a $140 al barile, il sospetto viene, insomma. Sospetto che ci sia un pizzico di fregatura, qualcuno sì, ci diciamo marcia. L'alternativa dovrebbe essere una sorta di dirigismo dei prezzi, che ovviamente cozza con la logica, diciamo così, liberista nella quale vogliamo impostare le cose, per cui la vera cura sarebbe una concorrenza sana, ma la sensazione che il cartello tra le diverse compagnie sia molto solido è abbastanza evidente. Vabbè, allora facciamo così: Saracinesca sempre aperta, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ma l'Italia già si muove alle 6:45, ma che fate? Ma state a casa a dormire, no? Vabbè, il traffico, poi entriamo. 24 mattino. Eccoci, siamo al bar di Radio 24. Mamma mia, quanto è presto! Stamattina mi sono svegliata alle 5 e così sarà per sempre. Con noi ci sono Mario Secchi, il direttore del Tempo, Bimbo Alieno, che è un blogger economico molto seguito, e dagli Stati Uniti Francesco Costa, che è del Post. Vabbè, sta storia della benzina, Mario, non lo so se ti ci vuoi esercitare, ma questa storia della benzina mi sa che farà sfracelli, no? Ormai siamo a 2 euro. No, hai detto una cosa in passato mentre la commentavi, intanto sulla benzina gli ha detto tutto da Bimbo Alieno, sull'economia del baratto. Quella sta tornando, o meglio, non se n'è mai andata, perché è una forma non di scambio che esiste e continua a essere praticata, ma sarà più forte. Quest'estate ho incontrato il professor Savona, sì, una mattina economista. Per una lunga chiacchierata e abbiamo fatto tutta una, diciamo, un viaggio in quella che è l'economia della, della Sardegna. Sai che lui è di Cagliari praticamente, sì. E io sono di Cabras, siamo due campidanesi. Ed è interessante perché analizzando il fatto che gli italiani stanno diventando più poveri a causa delle manovre e della recessione e del fisco, che è molto forte, si sviluppa sempre di più l'economia del baratto. Ti faccio un esempio. Io la vigna, faccio il vino, benissimo, io ti do il vino. E tu mi dai l'olio, magari. E io ti do l'olio. Tu hai i carciofi, benissimo, tu mi dai i carciofi, io ti do, mettiamo, il pane, perché lo faccio in casa del forno. Certo, certo. La cosa nella provincia italiana, che poi è l'Italia, perché l'Italia non è... Non è le grandi città, certo, sono 80 per... Non sono le grandi città, l'Italia non è Milano e Roma, appunto, perché poi sono finite le grandi città, sì, Medici, Torino, Napoli, ma l'Italia è la provincia, e in provincia questo sta avvenendo moltissimo. Ed è uno dei motivi anche per cui non si sente ancora così tanto la crisi come dovrebbe sentirsi in realtà, che è molto grave. No, no, ma infatti, ma tornerà su questo. Beh, in America dicono, Francesco Costa, di America dicono, no, la famosa frase presidenziale, it's the economy, stupid, no? Quello che decide chi diventerà presidente è sempre l'economia. A livello economico, come si gioca la partita tra Romney e Obama in questo momento? Ma la partita si gioca soprattutto riguardo il numero dei disoccupati. All'inizio di ogni mese l'Istituto della Statistica americano diffonde la cifra, diciamo, delle persone che hanno trovato lavoro o hanno perso lavoro, il saldo, diciamo. E quello è un numero che una volta al mese, diciamo, detta l'agenda. E negli ultimi 2-3 mesi non è stato molto positivo per Obama, dopo un 6-7 mesi di guadagni piccoli però costanti. E probabilmente i prossimi due rapporti insomma, daranno una sterzata nell'una o nell'altra direzione. Anche la benzina, però, visto che ne parlavamo prima, è un tema della campagna, un tema minore, però è un tema che esiste, perché gli Stati Uniti... Quanto costa la benzina, mediamente? Quanto costa lì? Allora, siamo arrivati ai livelli massimi lo scorso inverno e stava sopra i $3.50 il gallone, che equivale più a... Non farmi fare sti calcoli. A quest'ora poi c'è anche... No, circa 0,7 euro, quindi insomma... Cioè, 70 centesimi al litro. 70 centesimi al litro. Il livello, quello no, è il livello vabbè. Massimo che ha scatenato proteste incredibili, per capire insomma la differenza. Livello massimo, cioè verrebbe converrebbe quasi andiamo in America, facciamo il pieno, torniamo, più o meno. Obama viene considerato, viene accusato dai repubblicani di essere responsabile di questo aumento. L'aumento poi a causa è molto anche, insomma, la Cina chiede sempre più petrolio, così anche le altre economie emergenti, insomma ci sono vari fattori. Però sta di fatto che lì che il prezzo sale, anche lì è un tema questo, insomma, molto sentito dagli elettori, e quindi se ne parlerà. No, ma è questo, infatti, bimbo alieno, che facciamo? Conviene quasi, tu che sai tutti i calcoli, se io prendo, parto, vado in America, faccio il pieno, due pieni, vai, torno, magari ci guadagno. Ci guadagno qualcosa, no, a parte gli scherzi. Forse con le taniche, sì. Forse, no, 70 centesimi al litro. No, infatti, bimbo alieno, ma è 70 centesimi al litro, è così possibile che due grandi, diciamo, due economie, una grande economia americana e un'economia comunque italiana che si fa rispettare nel mondo, certo non siamo né al primo né al secondo né al terzo posto, ci sia una differenza così ampia del prezzo della pompa di benzina? Beh, insomma, gli Stati Uniti sono anche parzialmente autonomi dal punto di vista estrazione. Questo è vero. Noi la compriamo tutta, dovremmo secondo me confrontarci con i nostri paesi confinanti, Austria, Francia, dove i prezzi sono oggettivamente più bassi. C'è addirittura una sorta di meccanismo come quello che una volta c'era con la Svizzera sul confine ligure piemontese verso la Francia, di persone che passano il confine per far benzina in Francia e tornare indietro, cosa che appunto tempo fa si sentiva soltanto con la Svizzera. Chiaramente ci sono le estrazioni petrolifere in America e quindi questo aiuta. Io voglio, siccome ormai qua non lo so, siamo quasi, la sala cinesca rimarrà aperta, però siamo quasi in chiusura, non ho detto una cosa importante. Francesco Costa sarà, hai visto la partita ieri? E quando intendo la partita, adesso spiego a tutti, intendo la Roma, credo, no? Guarda, purtroppo non l'ho vista. partita, anche perché quella partita era in orario diurno e quindi era parecchio scomodo. Quindi, però, visto i gol, ho sentito un po' di commenti. Certamente il nostro bar bisogna parlare anche di calcio. La Roma ha vinto. Io sono milanista, lo sanno, mi pigliano anche un po' per il culo quest'anno, un po' tutti, eccetera. Però, insomma, gran trionfo di Zeman. Ti leggo il titolo della Gazzetta dello Sport, che non avevi. Zeman, che lezione all'Inter. Francesco, sei contento? Hai capito. Insomma, 3-1. Incredibile a San Siro, vabbè. Invece so che Mario Secchi ha salvato la ghirba, credo. Che è successo al Cagliari? 1-1? Abbiamo sbagliato due rigori, porca miseria. No, questa non la sapevo, come due rigori. Sì, abbiamo sbagliato due rigori. L'Atalanta era anche in 10, vabbè. Vabbè, 1-1. È stata una stagione di quelli terribili. Non fare così, ma tu sei il direttore del Tempo, quindi devi esultare per la Roma, devi esultare per la Lazio. No, io sono felice perché vendi più copie se vincono la Roma e la Lazio. No, no, poi noi seguiamo molto bene lo sport. No, sono molto contento per la Roma. Tieni presente che la Lazio è prima, eh? Beh, sì, sono due giornate, però, ho capito. Vabbè, a Roma prima. Anche la Juve prima è prima, anche il Napoli è primo, ho capito. Mario. Sono due belle squadre. Poi sì, non sì, so sì. Vediamo adesso i prossimi turni si capisce quali sono gli equilibri del campionato, però la Roma è molto forte. La Roma è forte, ma la Roma c'ha Zeman. Lazio, come al solito, è una squadra coriacea, quindi in realtà renderà cara la pelle fino all'ultimo, starà là. Cioè, avete capito, un direttore per vendere copie cosa dice? Tena il Cagliari, no. però dice la Roma è forte, la Lazio pure, no? Ma devi sapere che nelle mie riunioni di redazione io sono come un casco blu dell'ONU. Ah, beh, certo. Essendo tifoso del Cagliari, poi in realtà la riunione di redazione è spaccata tra romanisti e laziali. Non ti dico che cosa succede in riunione. No, immagino. Mentre Bimbo Alieno di calcio si interessa, boh. Ma sì, insomma sì, lontanamente. Lontanamente, che vuol dire? blandamente, diciamo. Blandamente, squadra? No, sì. Ma squadre, diciamo, io sono di origine genovese, quindi la Sampdoria. Che... E anche il Genoa, no, non me... No. Ecco, no. E poi, la Sampdoria, blandamente. E poi la Juventus. Va bene, la Sampdoria e la Juventus. Ce le hai tutte, cioè, Bimbo Alieno. Una cosa strana. Ma com'è possibile? Vabbè, grazie a Bimbo Alieno, grazie a Mario Secchi, direttore del Tempo, grazie a Francesco Costa dagli Stati Uniti. Noi siamo qui, e voi buonanotte forse, perché tornerete a dormire il giornale radio e poi dalle 7:20 ci tufferemo la lettura dei quotidiani in edicola. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, ha tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, con la ricetta di ciccirini e la compagna dice la precisa mamma. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Voi che vi siete svegliati da poco, voi che avete acceso la radio adesso e pensate eccoci qua alle 7:20, inizia 24 mattino, voi siete in ritardo, sappiatelo, perché noi da oggi siamo in onda dalle 6:35, dalle 6:35. Ma se siete arrivati adesso e se siete qui adesso, noi vi accogliamo con uguale entusiasmo. Eccoci qua. Però domani puntate la sveglia, grazie, così ci fate molto molto piacere. Se no c'è il podcast su radio24.it. Insomma, siamo in onda dalle 6:35 con 24 mattino, a partire da oggi e per tutta la stagione ovviamente. Siamo in onda sempre fino alle 9, c'è il nostro alpino Peter Bescapè, ci potete seguire su Twitter, @24mattino, oppure @AlinoMilan, sono io. E come di consueto adesso c'è la lettura dei giornali, quindi non cambia granché in questa fascia. Avremo ospite, ve lo dico, alle 8:20 il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria, e poi parleremo di casta, politici e biglietti dello stadio. Vanno a vedere le partite gratis, alcuni pagano, e ci sono alcune società di calcio che non vogliono più, la Roma, il Pescara,

Lo facciamo con il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria, che saluto. Buongiorno e ben ritrovato, sottosegretario. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Perché settembre è tempo di scuola. Allora, intanto oggi sul Corriere della Sera c'è una notizia che sicuramente è molto attuale, vale a dire il governo Monti ha previsto dei fondi, ha previsto un piano molto complicato e complesso per far fronte a uno dei problemi della scuola, vale a dire la dispersione scolastica, cioè evitare che molti giovani abbandonino la scuola nel corso degli anni. Di che fondi si tratta, sottosegretario? Sono fondi strutturali sociali europei delle regioni Puglia, Calabria, Sicilia e Campania, che vengono riqualificati per un intervento molto mirato per costruire dei prototipi che lavorano sia per riparare, nel senso riconquistare i ragazzi che stanno per lasciare, sia in via preventiva fin dalla prima infanzia. Si tiene conto delle esperienze nazionali e internazionali che ci sono, è molto più mirato che in passato e si spera che sia il viatico per ulteriori fondi che stiamo discutendo nella riprogettazione dei fondi europei fino al 2020 e oltre, perché ci sia una politica stabile su questa che è la principale emergenza della scuola italiana da molti lustri. Cioè due ragazzi su 10, mi pare di capire, non arrivano al diploma, questi in Italia. Cioè, ragazzi non solo non arrivano al diploma di scuola superiore, ma in molti casi non ottengono neanche una qualifica professionale spendibile sul mercato legale del lavoro. Ma cosa vuol dire investire per fare in modo che non abbandonino la scuola? Cioè concretamente poi cosa significa? Come si fa? Si va a prenderli per la collottola? Intanto stanno a scuola e sono già in difficoltà e quindi si aiutano le scuole insieme al privato sociale, al volontariato, alle parrocchie, ai centri sportivi del quartiere a fare un lavoro integrato come è stato già fatto proficuamente in tante parti, non solo del sud ma anche del nord. Poi si lavora soprattutto precocemente sui livelli di alfabetizzazione, perché se mettiamo in sicurezza quello che una volta si chiamava il leggere, scrivere e far di conto precocemente tra i 6, 7, 10 anni, le possibilità, questo è vero in tutto il mondo, di successo vengono moltiplicate. E si lavora su queste due filiere. Senta, a proposito di costi, sa che uno dei problemi delle famiglie italiane è di affrontare i costi relativi alla scuola ogni settembre. Ci sono famiglie che arrivano a spendere fino a 1.000 euro, le sembra normale? Non mi sembra normale, c'è una discussione lunga su questo. Penso che si debba entrare piano piano, molto gradualmente, in un nuovo mondo, che il mondo che usa meglio, ottimizza le biblioteche scolastiche, i mezzi che la scuola ha a scuola e i nuovi media. Penso che lentamente si può fare una politica di questo tipo. Però di fronte alla famiglia che adesso deve affrontare questa spesa, che si può fare? Non ci sono, per esempio, previsti fondi per affrontare anche questa emergenza? I comuni e le regioni prevedono già dei fondi sulla base del reddito delle famiglie, che poi questi riescano ogni volta a raggiungere tutte le famiglie che hanno bisogno, e questo nel mondo complesso non è sempre vero e nessuno si nasconde. Spero, auspico che gli enti locali insieme al governo possano nei mesi futuri pensare a qualcosa anche in questa direzione. Certo è che bisogna dare una svolta, la scuola deve ridiventare importante per tutti, e penso che un giro di boa c'è stato dal tempo in cui si diceva che la scuola era un peso, ora tutti parlano di scuola come una grande opportunità, perché siamo nella società della conoscenza, perché serve alla crescita anche economica del paese, che più gente sappiano più cose. Ma a chi si riferisce, sottosegretario? Cioè chi, adesso mi sfugge, chi diceva che la scuola era un peso? No, insomma, la scuola è stata considerata un po', non è una questione di destra o di sinistra, francamente, è stata considerata così un po' un lumicino in fondo alla discussione pubblica, no? Ci si è occupato di altro, adesso ci si occupa di più di scuola di quanto avvenisse 5 o 10 o 2 anni fa. Insomma, è anche un po' cosa fa? Un po' una polemica nei confronti del governo precedente? No, ma glielo chiedo. No, io faccio parte di un governo che non

complicato e noi ci lavoriamo dentro tutti quanti così. Però sottosegretario, per concludere, faccia una promessa, cioè per esempio su questi concorsi, e non è ammissibile che ci siano i quiz sbagliati con le risposte, perché se uno deve fare un concorso per essere abilitato a insegnare, c'è un quiz che prevede non so, più risposte, piuttosto che dei quiz veri e propri sbagliati, oppure dei quiz fatti come nei TFA da 145 esperti. Ma com'è possibile che 145 persone ci si mettano per fare un quiz e poi è anche sbagliato il concorso? Perché il flusso organizzativo per controllare questo sistema complesso probabilmente ha avuto qualche difetto. Allora noi dobbiamo imparare anche qui dagli errori, riparare gli errori, fare di tutto perché funzioni. Abbiamo un precedente, è stato l'esame di maturità di quest'anno. Erano 5-6 anni che si diceva non lo si può fare online, ci sono troppi rischi, ci siamo messi, il ministro Profumo l'ha voluto fortemente, ci si è messo, abbiamo controllato tutti, doppi controlli, tripli controlli, eccetera eccetera, è andato bene. Io penso che in questi giorni noi stiamo lavorando per avere un buon risultato, imparare dagli errori del passato, evitare queste cose che sono assolutamente inaccettabili. Quindi se lei vuole una promessa, la promessa è già in atto, cioè noi stiamo lavorando sodo perché non avvenga più quello che è avvenuto, e perché anche qui si volti pagina con umiltà sì, cercando di andare avanti. Cioè secondo me se non fossero 145 a fare le domande, ma fossero in solo 5, magari almeno sapremmo le responsabilità più ristrette, non lo so, ecco. Dovremmo arrivare ad un quiz chiaro di tipo europeo, come è stato annunciato anche dal signor ministro, e poi da prove che riguardano il merito delle proprie materie e anche il come lo si trasmette il merito delle proprie materie, perché ci vuole competenza didattica, sì, e passione civile nel fare gli insegnanti. Non basta sapere la matematica o le scienze, bisogna saperla anche insegnare. Allora, questo sì. E noi stiamo cercando di far questo, anche qui un giro di boa, con umiltà ma con costanza. Intanto la ringrazio, buona giornata al sottosegretario all'istruzione Marco Rossidoria. Buongiorno, grazie per essere stato con noi. Grazie e grazie ai... Noi ci fermiamo qualche minuto e poi vogliamo parlare anche con il vostro contributo, le telefonate all'800240024 del non tanto di calcio, o meglio di casta, quindi la politica e il calcio. Sono sempre di più, almeno secondo la denuncia di qualche giornale, i politici scrocconi da stadio. O meglio, ci sono le società di calcio che non ne possono più, alcune società, la Roma, il Pescara, sono tra le prime a dire: ma com'è possibile che perché i politici debbano avere alcuni i biglietti gratis, magari i consiglieri comunali, anche a Milano credo ci siano due biglietti per ogni consigliere comunale per le partite dell'Inter e del Milan, perché tutto questo? Allora è una battaglia di retroguardia, una battaglia che vi appassiona, oppure no, è un emblema della casta, il politico scroccone che va allo stadio. Ci sono anche politici invece che vanno allo stadio e pagano regolarmente il biglietto. Ne parliamo tra poco. 800240024 se volete intervenire in diretta con noi. 24 mattino. Siamo qui alle 8.33 e dalle 6.30 siamo in onda a partire da quest'oggi. Arriviamo fino alle 9. Allora, in quest'ultima parte di trasmissione vogliamo parlare anche con il vostro contributo all'800240024 di una cosa che magari qualcuno dirà è un po' di alleggerimento e di lotta alla casta, qualcun altro penserà. Insomma, un tema che però rimette insieme il calcio, i politici, gli scrocconi da stadio. Non è che detto i politici sono scrocconi da stadio, ci sono politici che pagano regolarmente il biglietto, ma insomma ci sono le società calcistiche che stanno cercando di contrastare questa moda diffusa da anni di dare ai politici, magari ai consiglieri comunali, biglietti gratis. E ci sono alcuni che abbozzano, altri dicono va bene, altri dicono no, a noi questa cosa non ci piace. Come mai? Ne ha scritto Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano. Carlo, buongiorno e ben ritrovato. Ciao, ciao, buongiorno. Eccoci, ciao. Qua. Venerdì ne hai scritto dicendo i club contro la casta da stadio, un po' la Roma, il Pescara. A proposito di Roma, saluto Paolo Cento. Buongiorno, Paolo. Buongiorno, salutiamo la vittoria della Roma. Sarà contentissimo. Guardi, Cento, io sono milanista, quindi faccia, dica quello che vuole della partita di ieri. Ne posso approfittare. ne approfitti con la magica. Ieri ha vinto 3-1. Paolo Cento paga regolarmente il biglietto? Sì, lei quando va all'Olimpico. Domenica ero nella mia Montemario, neanche la Montemario troppo, quindi. Va bene, mi faccia salutare allora invece a Pescara, un inizio di campionato diciamo un po' così. Renato Ranieri, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Lei è consigliere comunale a Pescara, anche presidente della commissione bilancio, e credo che abbia sollevato lei un problema anche tecnico. Lei è uno di quelli che ha ammesso in passato di andare allo stadio gratis, sì, si può dire gratis, sì, con i biglietti della società. L'anno scorso mi è stato donato, diciamo, ne ho beneficiato non solo direttamente, l'ho anche donato per fare andare allo stadio anche altre persone. Anche altre persone. Che ne pensa di questa? Per esempio, è una battaglia di retroguardia, una battaglia, una polemica sterile, oppure questa idea del politico che va allo stadio non si sa perché gratis, che può dar fastidio agli ascoltatori, invece la trova una battaglia giusta. Ma guardi, è un argomento che sicuramente dà fastidio, è giusto che le persone se la sentano e insomma attacchino i politici che in questo momento di difficoltà economica appunto cercano di fare i cosiddetti scrocconi e andare a vedere la partita gratis. Però mi permetta, ci sono due tipi di politici, il ragionamento va sdoppiato. C'è l'amministratore locale che effettivamente non è che ha diritto di andare a vedere la partita, anzi non esiste un diritto di andare a vedere la partita, ma vi è un rapporto consolidato ormai da anni fra le varie due istituzioni, che sono l'istituzione calcio, quindi società, e il comune proprietario dell'impianto. Cioè, ragioniamo su un aspetto, cioè, se il sindaco di Pescara volesse, come succede, come è successo, volesse invitare un suo simile, un suo collega di un'altra città, capita e succede che deve chiamare la Pescara Calcio e chiedere l'autorizzazione, e la Pescara Calcio deve fare il biglietto, che ne so, al sindaco Alemanno di Roma, che viene a Pescara per vedere Pescara Roma. E se la Pescara Calcio dice no, io il biglietto non te lo do, eccetera, cioè, va a comprare. Succede che il sindaco di Pescara deve andare a comprare una cuba, perché solo quella è rimasta, per far andare Alemanno a vedere. E questo non si può fare, cioè dice non è cosa buona, cioè, ecco. Non è normale, cioè è normale. Essendo il comune proprietaria dello stadio, è possibile che il comune debba chiedere autorizzazione a chi ha affittato lo stadio, l'impianto stesso? Cioè, quantomeno nell'ambito del rapporto fra le istituzioni, se un sindaco, se un presidente del consiglio comunale ha un'esigenza, dice, come dire, devo entrare a casa mia, devo prendermi il biglietto. Ma soprattutto perché nella cura dei rapporti fra istituzioni. Un conto è Ranieri Renato che vuol far andare a vedere veramente a vedere la partita un amico e quindi chiede un biglietto per l'amico, non ci siamo, non va bene, cioè non è opportuno, anzi soprattutto. Ma se il sindaco di Pescara, il presidente del consiglio comunale di Pescara invita il presidente del consiglio comunale di Roma, deve chiedere l'autorizzazione alla Pescara Calcio, il quale, se glielo nega, perché succede, deve comprare una curva, il presidente il sindaco di Roma, Alemanno, e non si, vedere e non si fa, è una questione non di è una questione di scortesia dell'immobile. No, certo, lei dice lo stadio è proprietario dell'immobile. Non so se prima di andare a Paolo Cento, Carlo Tecce, com'è che ti sei messo in mente di raccogliere questo elenco di società? Perché sta succedendo qualcosa, sta cambiando qualcosa, no? Le società, alcune società dicono non ne possiamo più di questa andata del passato. Chi sono in particolare che hanno cambiato registro? Per esempio a Roma questi biglietti sono più di 1000, anche con un valore economico. 1000? Circa 10. 1000 biglietti. Erano 1000 fino a qualche anno fa, adesso con la cura Baldini e degli americani saranno circa 200. Fino a qualche anno fa rappresentavano 10 milioni di euro. E poi le società lo fanno proprio per non sentirsi dire quello che ha appena detto il consigliere di Pescara, no? Che essendo consigliere si sente proprietario del comune, e il comune a sua volta è proprietario dello stadio. Il sindaco di Londra l'anno scorso ha partecipato come tutti quanti a una lotteria per avere i biglietti delle Olimpiadi e ha perso, e non ha visto le Olimpiadi tranne la cerimonia ufficiale, che insomma riuniva tutte, come dice lui, le istituzioni calcistiche. Anche dici se gli impianti magari sono del comune di Ronda. Della città. Però che deve fare effettivamente Ranieri? Cioè, il sindaco di Pescara vuole invitare il sindaco di Roma e al Pescara dicono no, si compri il biglietto il sindaco di Roma. Dovrebbe succedere così, Tecce, non è che stiamo diventando dei talebani. Il sindaco, è ancora uno per ogni città. Il problema sono tutti i consiglieri comunali, 48 di Milano, oppure tutte le migliaia di parlamentari che gira per Roma ogni giorno e che vuole andare allo stadio comunque vedesse la propria squadra. Il problema non è il sindaco, insomma, questo qua è qualunquismo proprio esagerato, troppo sono i consiglieri. Parliamo un consigliere comunale che magari avrà un altro lavoro, lo spero, con in tempo penserà di andare alla partita e cercare di acquistare il biglietto come tutti gli altri tifosi. La qualifica consigliere non dà la proprietà dello stadio. Sentiamo Paolo Cento. A Roma sono arrivati gli americani e hanno fatto questo taglio, no? È diffusa questa idea di persone? Lei sa di politici che vanno gratis allo stadio? Andiamo per ordine. Ci sono due i biglietti. Una dotazione dei biglietti omaggio è a disposizione delle società di calcio e quindi della Roma, un'altra è a disposizione del CONI, che è proprietaria dello Stadio Olimpico, così come magari in altre città il comune è proprietario dello stadio e gestiscono i biglietti. E fino a qualche anno fa vi era uno status symbol che in qualche modo dava addirittura la tessera di libero accesso negli stadi di calcio italiano ed è stata tolta e credo che sia un atto assolutamente corretto e giusto. Rimasta la possibilità di richiedere biglietti, io credo che sia giusto eliminare o ridurre al minimo alle funzioni istituzionali di buone relazioni la possibilità di avere alcuni posti ad hoc che sono quelle che vengono indicate come tribune autorità, ma è evidente che ci vuole un cambio di passo culturale. No, ho capito, ma perché lei paga e un altro che magari di cui lei mi farà il nome no? No, ma io non faccio nomi, nel senso che è capitato anche a me di andare allo stadio con i biglietti omaggio, quindi non mi metto a fare il primo della classe né l'ultimo. Quello che credo che se il calcio deve diventare un titolo di merito, andare allo stadio acquistando il biglietto valga per tutti a cominciare dai politici, ma anche per tutte le altre caste, perché se noi guardiamo le tribune d'autorità e le tribune d'onore degli stadi, mi faccia dire, per uno che conosce bene il mondo del calcio, c'è di tutto effettivamente. Sono molto meno i politici e molto più gli altri. Molto più gli altri. Qual è la categoria che trova più rappresentata? Ce ne sono dirigenti delle varie attività sportive, magistrati, giornalisti che non stanno lì a fare il loro lavoro, ma stanno lì a seguire legittimamente la partita. Quindi io credo bisogna fare un cambio di passo e io credo sia giusto la politica dia il buon esempio in questa direzione. Fatemi dire, si parla molto di questo che mi pare un piccolo problema, io colgo l'occasione per parlare del fatto che ieri volevo andare a Milano a vedere la partita e c'è questa cosa assurda della tessera del tifoso che impedisce alle persone di andare. Ma chi la sta chiamando, Cento, che la stanno reclamando? Facciamo anche le funzioni di papà, andiamo, allora papà andiamo, ho capito, questa trasmissione può finire che dobbiamo andare in spiaggia, non lo so dove dovete andare. Mi faccia sentire Alessandro, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Alessandro da Roma, buongiorno. Prima affermazione, la concessione dei biglietti gratuiti ai politici o ad altri è una captatio benevolentiae da parte delle società e quindi possono fare quello che vogliono. Non è giusto che i politici lo richiedano. Ho telefonato semplicemente per portare una testimonianza. Nel 1994-96, un presidente della Camera italiano, donna, giovane, decise di andare a seguire la finale dei campionati del mondo a Los Angeles, Italia-Brasile. Mi scusi, se dice così, donna, giovane, presidente della Camera, intanto lei, mi hanno detto dalla redazione, lei è stato, possiamo dirlo, si è qualificato così, ex capo ufficio stampa della Camera dei Deputati, lei. Sono stato capo ufficio stampa della Camera dei Deputati dal 92 al 96. Se dice giovane, donna, presidente, sta parlando di Irene Pivetti. Perché, esattamente, siamo andati con Irene Pivetti a vedere la finale dei campionati del mondo, probabilmente sul modello di quello che era stato a suo tempo la presenza di Pertini, e arrivati negli Stati Uniti abbiamo avuto l'incontro con il fatto che là, come per andare ad un pranzo di un politico, si paga. E abbiamo pagato $600 per andare a vedere la finale. Avete pagato regolarmente il biglietto. Allora, questo è anche ciò che dovrebbero fare, non solo i politici, ma anche i sostenitori, e è uno degli aspetti della casta che non va, mentre tanti altri che lei stesso ha affrontato in trasmissione, su cui mi permetterei un giorno di ritornare, sono completamente sbagliati. No, ma è chiarissimo, ma si aspettava, vi aspettavate di andare invece a vederla gratis? Cioè, siete rimasti stupiti quando... Non lo sapevamo, ma il nostro ambasciatore ci ha fatto notare come in quel paese che noi imitiamo in tanti modi, la partecipazione agli eventi di massa, siano essi politici, i grandi pranzi di raccolta fondi, siano quelli sportivi, si paga. In questa maniera si testimonia la solidarietà. Si paga perché si è come tutti gli altri. Grazie Alessandro. E si è tifosi, certo. Grazie Alessandro, la testimonianza è interessante. Da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Allora, i politici e le partite di calcio, molti vanno gratis, molti no, le società calcistiche dicono basta, questo andazzo, dobbiamo far pagare tutti. Carlo Tecce, intanto hai sentito, Carlo del Fatto Quotidiano, ci ha chiamato appunto dal capo ufficio stampa della Camera ai tempi di Irene Pivetti, là si paga, siamo andati a vedere il 94 la finale, ahimè abbiamo perso i rigori e hanno dovuto pagare, ecco. Sì, si paga da un bel po' di anni, quindi, no? Il problema è che il biglietto, al di là del suo valore economico che può essere utile alla società, oppure a Roma ad esempio il CONI che gestisce i biglietti, è ovvio che vengono gestiti e distribuiti per concedere un regalo, rimarcare un privilegio che alcuni possono avere e altri no, ma è un piccolo pezzetto di cassa che è davvero di cattivo gusto, soprattutto per i tifosi. Non so se tu sei un tifoso accanito, immagino di sì. Accanito, sono un milanista. E non dell'Inter, no? Sono un milanista, no, non vado allo stadio da un po' di tempo, ci sono andato per tanti anni in curva. Alessandro, sì. C'è un unico, l'ultimo biglietto di una finale di Champions League tra Milan e Inter, questo biglietto costa 1000 euro, preferisci averlo tu a 1000 euro oppure lasciarlo a parlamentare gratis? Un tifoso è disposto a pagare. Vabbè, ma Milan-Inter manco vado a vederla, è già vinta, quindi sto a casa. No, ma certo, quindi il problema certamente c'è. Sentiamo Francesco da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire per dire una piccola verità. Sì. Io non credo che le società di calcio abbiano subito negli anni questo andazzo. Io credo che le società di calcio siano state complici, compiacenti e interessati di questo tipo di rapporto. Perché le società di calcio, soprattutto quelle piccole, ma di tutte le serie, soprattutto in meridione, sono quelle che poi chiedono agli enti locali, ai comuni, dei contributi quando sono in difficoltà. Io le potrei fare elenchi chilometrici. Ah, quindi dice è anche un modo per accattivarsi le simpatie, certo, del politico locale. Di delibere comunali che hanno stanziato centinaia di milioni per venire incontro a questa o a quella società. Quindi è un rapporto stretto, simbiotico, questo tra le società e i politici. Però Francesco, ma questo dice di convenienza. La ringrazio Francesco Reggio Calabria. Io però vorrei tornare da Renato Ranieri, come vedete consigliere comunale a Pescara, che ha posto la problematica in un modo diverso, dire noi comune di Pescara siamo proprietari dello stadio e credo che molti politici a Pescara abbiano addotto questo, come dire, quindi abbiamo il diritto di visionare gli impianti sportivi della città come e quando ci piace, anche durante le partite di calcio. È vero che qualcuno ha addotto questa scusa, Ranieri? Non dice falso, ma dice soprattutto una cosa fondamentale. Però un po' la scusa, ribadisce... cioè dico, uno casualmente vuole andare a vedere e a visionare l'impianto sportivo la domenica quando c'è la partita. Io li ringrazio che mi date questo spazio perché così posso anche chiarire. Allora, c'è un articolo, l'articolo 26 del regolamento nel nostro comune di Pescara, che stabilisce proprio quello che ha detto lei. È chiaro, noi l'abbiamo detto in questo momento in chiave provocatoria, anche è scritto anche durante le manifestazioni. Perché uno che vuole andare viene preso dalla voglia di andare a vedere lo stadio la domenica, casualmente. Ma è certo che non vado a vado a svolgere il mio dovere di consigliere comunale durante Pescara Lazio, per dire, la prima partita che mi è venuta in mente. È chiaro, è provocatoria. Però è chiaro che io debba svolgere però il mio ruolo, il dovere di consigliere comunale durante la settimana, giusto? Certo. Se voglio andare questa mattina allo stadio Adriatico di Pescara... ci può andare. Le pare semplice? No, devo chiedere l'autorizzazione alla Pescara Calcio. Vabbè, ma guardi, questa è un'altra, è un'altra cosa però. Guardi, lei forse l'argomento veramente merita molta, molta attenzione. Noi a Pescara si sta ancora sviluppando la questione e si andrà ancora avanti. Noi l'altro giorno, il 3 agosto persino, abbiamo ritrovato una carta con la quale la Pescara Calcio negava al comune di Pescara e ai suoi tecnici la gestione del bar del comune di Pescara durante un'amichevole Pescara Levante. Cioè si sono presentati un giorno i dipendenti del comune o coloro i quali dovevano in quel giorno per garantire l'apertura del bar durante un'amichevole Pescara Levante di preparazione al campionato, la Pescara Calcio ha messo per iscritto una nota nella quale diceva no, non facciamo entrare perché non sono autorizzati, non possiamo rilasciare pass, non possiamo rilasciare numeri. C'è una guerra in corso. Ai dipendenti del comune di Pescara. Cioè qui siamo nell'assurdo. Cioè noi siamo proprietari dell'immobile, dobbiamo aprire i servizi nostri del comune, sì. Il bar, eccetera, eccetera. Non lo possiamo fare se non autorizzato. Ma qua c'è qualcosa sotto, non ho capito, ci sarà da approfondire. Intanto ci ha chiamato l'ascoltatore da Pescara, vogliamo sentire anche la sua versione. Massimo da Pescara, buongiorno. Massimo. Buongiorno a voi tutti. Dica. Ecco, io volevo appunto confermare questa, diciamo, soluzione che hanno adottato i consiglieri comunali per poter andare allo stadio. Ecco, in virtù del regolamento che lega la Pescara Calcio con il comune di Pescara, proprietario dell'impianto, ecco, i consiglieri comunali hanno proprio sostenuto che era loro diritto, in base al regolamento, andare a controllare lo stadio. Però ci sta, ci sta dicendo vogliono controllare solo la domenica. Massimo, ci sta dicendo il consigliere Ranieri che chiaramente questa è anche una provocazione, per dire, è chiaro che nessuno vuol sostenere che vogliamo andare a fare la ricognizione allo stadio casualmente quando c'è la partita di calcio, ma era per dire, per tirar fuori un punto di contraddizione. Non so, io ci siamo avviluppati su questa cosa di contraddizioni tecce, di regolamenti, i consiglieri dicono possiamo intervenire nello stadio quando vogliamo, lo stadio è loro, effettivamente si ritrovano anche a dire ma lo stadio è loro, cioè... No, ma questo è un altro limite del calcio italiano che non si emancipa dalla politica. Le squadre di calcio, soprattutto serie B, si facciano lo stadio, le squadre si facciano lo stadio, come diceva prima un radioascoltatore, ricevono anche molti sostegni economici dalla provincia, dai comuni. Ad esempio le province non fanno nulla ma finanziano le squadre di calcio infatti la soluzione all'inglese si facciano lo stadio le squadre, così uno fa entrare è casa mia, entra chi vuole, chi voglio io. Il consigliere di Pescara sbaglia invece un altro sillogismo, cioè nel senso, se c'è questo duello giuridico e d'autorità tra il comune e la squadra di calcio, quindi un ente pubblico e una società privata, di mezzo ci vanno i soldi di tutti. Se una squadra, una società decide di ricambiare la gentilezza, se un comune decide di ricambiare la gentilezza di una squadra di calcio concedendo dei fondi e prendendo dei biglietti, non si capisce perché i cittadini e poi i tifosi devono essere fregati due volte, pagare, prima con i soldi e poi secondo in qualità di fatemi tifosi. Sentire Paolo Cento, c'è ancora? Sì, so che ci lascia qualche minuto prima, ma adesso la lascio ai doveri più importanti di papà. Senta, ma è una battaglia questa storia della casta. No, sai che vengono fuori ogni giorno questi articoli di lotta alla casta, eccetera. Lei adesso non sta più in Parlamento, però c'è stato in Parlamento, ovviamente. Magari ambisce a ritornarci, no? Ma vediamo, ma non è, si fa politica anche stando fuori al Parlamento, come credo sto dimostrando, andando anche a lavorare, perché tra qualche minuto vado a fare un lavoro simile al suo in una radio romana, quindi nella vita bisogna saper fare politica anche quando non si ha la condizione di parlamentare o di rappresentante. Io voglio dire una cosa su, perché le società di calcio adesso hanno scoperto anche loro la lotta alla casta e va bene. E mi auguro che se ne ricordino quando bussano alle porte delle varie commissioni parlamentari per la legge sugli stadi di qua e di là, perché la legge sugli stadi rischia di diventare il cavallo, diciamo, di Troia con cui poi si fanno operazioni speculative. Ma mi sa che visto il tasso di permalosità di alcuni politici, mi sa che non bussano più facilmente dopo che li tolgono il biglietto. No, io credo che c'è bisogno di una legge seria sugli stadi, che le società debbano farlo, ma si devono togliere di testa le società di calcio di fare business immobiliare con gli stati. Va bene, va bene. No, no, ma su questo vedremo poi come si evolve anche la situazione a Pescara. Io ringrazio tutti, da Carlo Tecce del Fatto Quotidiano a Paolo Cento, che è stato con noi, e insieme a Renato Ranieri, che è consigliere comunale a Pescara. Che dire, come avete capito, iniziamo dalle 6:30. Abbiamo cominciato oggi, poi mo vi faccio sapere venerdì come sto a sveglia. Cioè a sveglia alle 5, dopo che mi sveglio tutti i giorni alle 5. Ecco. Potete seguirci su Twitter, Alino Milan, quello sono io, oppure 24 Mattino, questo è il Twitter della trasmissione. Siamo anche su Facebook, cioè 24 Mattino. Saluto Alessandro Longoni in redazione insieme a Elisabetta Fusconi, e che dire, l'appuntamento è rinnovato domani, ma ricordatevi sempre una cosa, che Ciriaco De Mita, come abbiamo sentito alle 6:30, ha la scorta, anzi la tutela, come dice lui. E se gli chiedete perché ha la scorta e come mai a Ciriaco De Mita, notabile della DC, ex presidente del Consiglio, abbia ancora una scorta, come ha fatto la nostra Elisabetta Fusconi, può darsi che Ciriaco De Mita si possa un po' inalberare. Ecco, si possa inalberare. Sentite e ci sentiamo domattina alle 6:35. Se me l'hanno dato, vuol dire che una ragione c'è. Non è scorte e tutele, è una cosa molto diversa. Vorrei che si avesse nella memoria che io sono stato presidente del Consiglio. Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.